Gli speciali di Radio 24. Scuola, quale scelta per i nostri figli? 430.000 iscrizioni completate, il 28% del totale. Famiglie ormai dunque abituate alla nuova procedura online che da qualche anno è obbligatoria per l'iscrizione alle prime classi di ogni ordine di scuola. Vi ricordiamo, non c'è fretta, potete farlo fino al 22 di febbraio. Un ragazzo su quattro dell'ultimo anno della secondaria di primo grado, per comodità a volte la chiameremo le medie, l'ex media, non ha ancora deciso cosa fare. Allora è proprio a loro che ci rivolgiamo questa sera, perché questa è davvero la prima scelta importante che i ragazzi sono chiamati a fare nella loro vita. Allora, classico, istituto tecnico, istituto professionale, poi non è finita qui, perché quale liceo, quale istituto tecnico e quale istituto professionale? Ascoltare cosa dicono mamma e papà, decidere da soli, seguire la propria passione o dare un occhio anche ai lavori che offrono maggiori probabilità di impiego. Insomma, è utile battere a tappeto tutti gli open day di tutte le scuole, impazzire, fare il giro delle sette chiese, o si rischia di confondersi ancora di più le idee? Tanti gli ospiti che ci aiuteranno a capire in quest'ora cosa fare, che soprattutto aiuteranno voi a capire meglio cosa fare. Avremo dirigenti scolastici, insegnanti, fra poco anche i consigli del ministro dell'istruzione Giannini. Potete chiamare in diretta all'800 24 00 24, gli sms e whatsapp a 349 238 6666, i numeri che ormai conoscete molto bene, mail a scuola@radio24.it. Cominciamo con i nostri ospiti che sono venuti qui in studio a darci una mano. Daniele Grassucci di scuola.net. Ciao Daniele. Ciao Piera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Un amico di Radio 24, lo conoscete già. Un nuovo amico invece di Radio 24 ci ha raggiunto in studio, Giorgio Sturaro, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Linneo a Milano. Buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo con Daniele, così insomma cominciamo un po' a scaldare il microfono. Abbiamo realizzato insieme questo sondaggio, oggi ne abbiamo parlato qui su Radio 24, ne hanno parlato poi anche gli altri media. Ad una settimana dalla partenza delle iscrizioni, uno studente su quattro del terzo anno della secondaria di primo grado, quindi delle medie, non ha ancora idea di quale scuola scegliere. È così, Daniele? Beh, assolutamente, purtroppo è un problema ricorrente, di anno in anno ecco commentiamo più o meno sempre lo stesso dato, e quindi questo ci fa capire che bisogna potenziare l'orientamento, perché non si può arrivare ad una scelta così importante e così impreparati, ecco, perché adesso significa che in 20 giorni questi ragazzi dovranno scegliere praticamente il loro futuro, perché sappiamo ecco che la scelta della scuola superiore è poi determinante o per il percorso universitario o per quello professionale. Andiamo avanti, il 68% degli intervistati è comunque orientato verso, oppure si è già iscritto ad un liceo, naturalmente parliamo in maggior parte di ragazze, il 20% ad un istituto tecnico, in questo caso invece in maggior misura ai ragazzi e al nord Italia, il 12% ad un istituto professionale, in maggior misura nel sud Italia e nelle isole. E questo è un problema endemico, perché sostanzialmente gli indecisi tendono a polarizzarsi sulla scelta del liceo, perché poi noi sappiamo che in linea di principio il 50% dei ragazzi va al liceo e il 50% agli istituti tecnici e professionali. Quindi questo dato così alto, il 68%, è rappresentato soprattutto da quella fascia di indecisi che, non sapendo cosa fare, pensa di andare al liceo come se fosse una scuola universale. In realtà in questo caso magari si perdono opportunità ma anche professionalità. Assolutamente. Allora, idee ancora non chiare per tutti, come ovvio che sia, nella scelta della scuola da frequentare, però questi ragazzini, perché di ragazzini parliamo, hanno davvero 13-14 anni, si mostrano molto con le idee molto chiare, molto consapevoli dell'importanza del passo che stanno compiendo. Sì, è proprio questa ed è la novità rispetto a quest'anno, ovvero che c'è una forte connotazione, cioè legata proprio al mondo lavorativo per quanto riguarda la scelta. Quindi i ragazzi pensano a cosa faranno da grandi, quasi la maggior parte di loro ritiene che questa scelta sia determinante per il proprio futuro professionale, e addirittura abbiamo scoperto oggi, e questo ha fatto notizia, che 3 ragazzi su 4 stanno pensando comunque di andare all'estero o non escludono questa possibilità finito il ciclo di studi delle scuole superiori. Quindi vediamo che si sta trasmettendo una grossa sfiducia a questa nuova generazione, quindi già da piccoli, dove dovrebbero ecco pensare magari a giocare, a divertirsi, invece si cominciano già a preoccupare di trovare un lavoro, e sanno che in Italia purtroppo le opportunità ad oggi non sono proprio fantastiche. Speriamo però che poi poi tornino, che vadano a fare un'esperienza all'estero ma poi tornino. Giorgio Sturaro, che aria tira in questi giorni nelle scuole medie, chiamiamole così perché è più semplice, mamme agitate, ragazzini un po', no, in ansia forse per questa scelta? Ma diciamo che noi su questo abbiamo lavorato nei mesi scorsi, e a partire dalla seconda lo hanno fatto nelle classi gli insegnanti. Quello che arriva a me, che parentesi, in questi giorni sto gestendo l'altro versante dei nostri open day per l'ingresso nella primaria e nella secondaria di primo grado, su quelli in uscita mi arriva in questi giorni qualche verità abbastanza scarsa come numero, qualche protesta sui consigli orientativi, cioè qualcuno che magari non ha per tempo contattato gli insegnanti. Non si riconosce nel consiglio orientativo, che lo ricordiamo è quel consiglio appunto che viene dato dagli insegnanti per ogni ragazzo, viene indicato meglio che vada al classico piuttosto che allo scientifico, piuttosto che a un tecnico, certo. E non sempre ci si riconosce. Sì, anche per i vincoli che talora più o meno propriamente le scuole superiori pongono, per cui in caso di esubero di richieste o anche in mancanza di quella situazione vanno a richiedono il consiglio orientativo che è stato dato. E allora a quel punto dovete cambiarcelo, perché se no non riusciamo ad andare a tale scuola. E questo ovviamente rende il consiglio più che consiglio, quindi una chiave, forse non è giusto, oppure lo rende non un nostro consiglio ma alla fine una nostra firma, certo. Può essere, quindi ovviamente. Meglio farsi una chiacchierata. Un primo consiglio che possiamo fare prima di iscriversi e prima di farsi consegnare, insomma prima della data in cui vengono consegnati ma questi per tempo, consigli orientativi, meglio farsi una chiacchierata con gli insegnanti, di modo che non dico che ci si metta d'accordo, perché non è così che funziona, però che in qualche modo si spieghi anche all'insegnante quale sarebbe la propria si avvia un dialogo e poi si vede, certo. se è fattibile tra le tante cose che può fare quel ragazzo, anche quello che poi vuole fare. Assolutamente, no? Le vostre telefonate all'800 24 00 24, WhatsApp 349 238 6666, strada in diretta. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Quando faccio rap frata va chi no per dose. Cosa, quando faccio rap frata capa narra posa. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap frata so pericolosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Viviamo tra parenti che si chiudono e tu in mezzo. Uso il rap apposta per non fare il tipo grezzo. Super funk in una busta sound pittoresco. Un lavoratore col datore disonesto. Ma sta metropolitana vindana scavata. Ma state facendo? O state cercando? O state scingando? Ma quando pigliamo? Tre numeri po' bangolotte che a non ci stanno. Tinde poste stai facendo una fila quattro settimane. Stamma aprile ma mi volesse fare Natale a casa. Tinde trasmissione fra ci stanno i criminali. Quirinale, Viminale, tutta Italia, Quirinale. Guarda televisione, sono tutto uguale. Sti programma rosegagna, pure si mora a zanzara. Una città che sta ingazzata, cacciappata, ammazzata. O sangue San Gennaro, a sto giro sei ghiacciata. Mamma che fridda. Quando faccio rap frata va chi no per dose. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap frata capa narra posa. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap frata so pericolosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Tu non ne fatta mano. Torniamo insieme per darvi una mano a scegliere queste benedette superiori. Ci colleghiamo con Rocco Schembra, professore del classico, liceo classico Gulli e Pennisi di Aci Reale. Buonasera Rocco. Buonasera a tutti. Allora, lei è un professore veramente speciale, che farebbe venire voglia di iscriversi al classico, penso a tutti i ragazzini, perché lei è l'ideatore della notte nazionale del liceo classico. Quando è stato? Sì. Un 10 giorni fa avete realizzato? Sì, è stato il 15 gennaio, il 15 di questo mese, la seconda edizione della notte nazionale del liceo classico, che quest'anno ha coinvolto ben 237 licei classici su tutto il territorio nazionale. E avete aperto appunto i vostri licei classici per dimostrare che cosa, insomma, perché un ragazzino dovrebbe iscriversi ad una scuola così, che suona così vecchia, polverosa come il liceo classico? Intanto sì, vorrei precisare, la notte nazionale ovviamente ha certamente delle ricadute anche sull'orientamento, però nasce per delle finalità altre che riguardano proprio il curriculum del classico e non è questa la sede per affrontarle. Io guardi, prendo la sua domanda, le vorrei chiedere piuttosto perché dovrebbe non iscriversi al classico, perché fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, il liceo classico rappresentava una scelta quasi obbligata per tutti quei ragazzini orientati anche molto positivamente dalle famiglie per ricoprire poi posti o della classe dirigente, degli intellettuali italiani o comunque posti lavorativi di rilievo appunto in Italia. Ora purtroppo, come è noto, da qualche anno a questa parte il classico sembra aver perduto un po' di fascino, di attrattiva, di appeal appunto sui giovanissimi. Le iscrizioni stanno diminuendo, stanno in effetti. Un po', sì, almeno fino all'ultimo anno sono un po' scese, adesso siamo tutti in attesa. Io però ritengo, ecco, se posso esprimere il mio punto di vista, che ciò sia veramente paradossale, perché proprio la società attuale è estremamente, ovviamente, più complessa di quanto non fosse appena 10 o addirittura 20 anni fa. E dunque fenomeni come per esempio la globalizzazione, la ristrutturazione mentale dei nativi digitali, l'informatizzazione, tutte queste migrazioni appunto di popoli, in effetti si dovrebbero prestare ad una analisi che un liceo come il liceo classico effettivamente aiuta a strutturare nella mente dei giovani. Mi spiego un po' meglio. La peculiarità del classico, che poi di fatto oltre a tante altre cose è la quotidiana pratica della traduzione delle lingue antiche, dunque il greco e il latino, sì. Che lungi ovviamente dall'essere uno sterile esercizio grammaticale, invece un importantissimo lavoro di decodifica e transcodifica, perché si passa da una lingua antica ad una lingua moderna. Rocco, così li spaventa questi ragazzi? Codifica li spaventa. No, sono termini tecnici, ma significa assolutamente passare da un codice linguistico antico alla lingua nostra, alla lingua madre. Questo lavoro pone gli studenti proprio ad un continuo allenamento che è molto graduale, si parte da esercizi semplici, certo, ma si arriva a però termini voi più con la notte nazionale del liceo classico avete voluto dimostrare proprio che il liceo classico non è soltanto latino e greco, perché che si fa di bello in questa scuola? In questa scuola, ovviamente nella notte nazionale, noi abbiamo dimostrato che i nostri ragazzi sono ragazzi particolarmente abili e hanno mille talenti che a volte non riusciamo nemmeno a tirar fuori nelle ore curricolari del mattino, perché sono molti, molto bravi anche a recitare, a cantare, hanno dei talenti nascosti appunto perché probabilmente sono molto motivati, hanno una curiosità molto stimolata e stimolante nei confronti della vita. Però ecco, vorrei anche precisare un'altra cosa. Sì. L'immaginario forse collettivo italiano crede che il liceo classico sia solo latino e greco e sia solo questa traduzione, questo studio un po' stantio e polveroso di delle anticaglie che non servono più. In effetti il liceo classico oggi è molto molto cambiato, perché c'è i programmi di matematica per esempio sono esattamente identici a uno scientifico, la lingua straniera è molto potenziata, le scienze per tutti e cinque gli anni, cioè un classico che non è più come quello per esempio che ho frequentato io. Inoltre sì, ogni singolo liceo ha un'autonomia tale da poter offrire, da poter diciamo presentare un piano dell'offerta formativa tale che abbia altre certo. Certo, mille altre possibilità, beni culturali, il bilinguismo, quindi ce ne sarebbero mille Rocco, potrei che citare. Caratteristiche deve avere un ragazzo o una ragazza per iscriversi al classico? Ma io penso che un ragazzo che voglia iscriversi al classico deve essere certamente consapevole che si tratta di una scuola impegnativa, però al contempo molto stimolante, che offre delle garanzie anche di successo universitario e lavorativo. Ci vuole una buona preparazione di base, un po' in tutte le discipline, ma non parliamo di eccellenze. Cioè ragazzi soprattutto che abbiano fatto un percorso alle scuole medie dignitoso, ma soprattutto che abbiano tanta voglia di imparare, che abbiano motivazione all'apprendimento, perché il classico è una continua sfida, è soprattutto se poi si hanno gli insegnanti giusti, è un contesto di apprendimento, un ambiente di apprendimento valido, con delle buone biblioteche, con una buona un buon corpo docente e dei ragazzi stimolanti, diventa veramente una quindi, crescita culturale quotidiana. Quindi per un ragazzo che vuole iscriversi al classico deve avere quantomeno il gusto della sfida. Assolutamente sì, la voglia di apprendere, di perfetto, mettersi in gioco, perché è una cosa veramente bella. Grazie, cioè, il liceo classico insegna alla bellezza, ecco. No, grazie. Cavoli, a voi. E non è poco, assolutamente. Grazie a Rocco Sghembra del classico Gulli e Pennisi di Acireale. Tu hai scelto in che istituto andare l'anno prossimo? Allora, Alfonso Casanova. E io vado a fare informatica. Te l'ha consigliato la scuola o l'hai scelto tu direttamente? No, è venuta la professoressa del Casanova e mi ha convinto, perché io già prima sapevo che dovevo andare là. Ma quindi qua a scuola vi hanno organizzato una giornata, che cosa hanno fatto per aiutarvi? Hanno organizzato dei giorni solo di un'ora, che venivano le professoresse delle altre scuole e ci convincevano ad andare là. Ma che fatica! Tu hai scelto in che scuola andrai? Non so, io vorrei fare o informatica oppure moda. Che queste due scuole hanno la possibilità di non farci sentire il peso dello studio. Faremo l'istituto linguistico. Tu hai già scelto in che scuola andare l'anno prossimo? O il liceo classico genovese o scientifico al Fonseca. Allora ti piace studiare? No. E come mai fai il liceo? Devo. Che tipo di... Linguistico tedesco. Linguistico tedesco. Perché tutto il tedesco? Ci può aprire a più esperienze. Al lavoro, ci apre subito al lavoro, ecco. Fantastici questi ragazzini napoletani, sanno sempre davvero essere molto coloriti. Ma noi da Napoli invece ci spostiamo a Brindisi, perché ci ha raggiunto al telefono Salvatore Giuliano. Buonasera. Salve, buonasera a tutti voi. Dirigente scolastico dell'ITIS Maiorana, molto conosciuto nell'ambiente, perché lei è un dirigente molto vivace, sì, davvero molto vivace. Troppo. Ha portato i libri a scuola fatti da suoi insegnanti sull'ebook, insomma ha fatto un sacco di belle cose che poi sono state anche un po' copiate in tutta Italia. Lei dirige l'Istituto Maiorana, che è un istituto tecnico ma anche un liceo scientifico. Sì. E allora anche a lei chiedo, insomma, quali devono essere le caratteristiche dei ragazzi, per esempio, che vogliono iscriversi, adesso cominciamo con lo scientifico, che vogliono iscriversi allo scientifico, che caratteristiche dovrebbero avere, a chi lo consiglia, a chi invece forse può consigliare di evitarlo? Allora, considerato che sono molto vivace, come ha detto lei, proverei a invertire il ragionamento. Non è il ragazzo che deve essere portato per un tipo di scuola. Io ritengo che la vera sfida sia un'altra, diametralmente opposta, molto più impegnativa. È la scuola che deve essere a portata dei ragazzi. Ed è questa la sfida che tutti i sistemi educativi devono cogliere. Se vediamo sulla carta i programmi, non esistono più ormai dal 99 i programmi ministeriali, ma comunque i contenuti delle diverse discipline, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quale scuola scegliere. Io il consiglio che mi sento di dare ai giovani ragazzi che si apprestano, alle famiglie che si apprestano a scegliere la scuola, è: scegliete una scuola che dia la possibilità ai vostri figlioli, ai vostri ragazzi, di dare libertà alla loro creatività e alla voglia di apprendere, che è innata in ognuno, in ogni essere umano è innata la voglia di apprendere. Quindi Giuliano, si fa presto a dire questo, però poi lei pensi ad una mamma che ha lì questo ragazzino di 13-14 anni che non ha una propensione particolare, va benino, non spicca in nessuna materia, come si fa? Andate, lei che ne ha visti tanti. Andate a visitare le scuole, parlate con i presidi, parlate con i docenti, assistete, perché molte scuole lo fanno già, assistete a delle lezioni. E vedete come interagiscono gli alunni con i loro docenti, e allora sicuramente si faranno molti più elementi per una scelta intelligente. E non fidiamoci, non limitiamoci a leggere o ad esaminare quello che è sulla carta il programma formativo e l'offerta formativa che un'istituzione scolastica offre. Anche perché le scuole fanno anche un po' di marketing, no? Diciamocelo, in questo periodo agli open day abbiamo le LIM, abbiamo questo, poi magari non le sanno usare oppure ce l'hanno in una classe. Quindi insomma bisogna cercare di guardare oltre il marketing. Che... Andate a visitare le scuole, e confrontatevi con i docenti, sono cose che si capiscono subito, se c'è, come mi piace sempre dire, se ci sono le tre famose P, passione, passione e passione. Se c'è quello, allora l'indirizzo, qualunque esso sia, va bene. i ragazzi andranno bene a scuola, avranno voglia di andare a scuola. Quanti gliene arrivano al suo scientifico di ragazzi che hanno poi sbagliato? Perché poi tornare indietro si può cambiare anche in corso d'anno, adesso non esageriamo, non è la scelta della vita, però insomma sarebbe meglio di no, ecco, come dire. Quante gliene arrivano a lei poi di ragazzini che hanno forse sbagliato indirizzo? Molto prossimo allo zero. E come mai questo miracolo? Non è un miracolo, i ragazzi stanno bene, apprendono, hanno eccellenti risultati, perché? Perché ci stiamo sforzando tutti insieme, ma non è solo l'esperienza del Majorana, ci sono tantissime realtà in Italia che stanno investendo tanto su questo, nel cambiare gli ambienti, i tempi di apprendimento, il modo di stare a scuola. Non possiamo pensare ad una scuola oggi, nel 2016, che se ne dica digitali, nativi digitali, sono tutte fesserie, mi perdoni questo termine, ma non possiamo pensare ad una scuola impiantata con sistemi ottocenteschi ancora oggi nel 2016. Bisogna un po' saperli appassionare giocando con i loro stessi strumenti, forse, insomma, un pochino. Se un denaro tornasse in vita non riconoscerebbe la propria città, se tornasse nella classe la troverebbe identica, questo non ha più senso, è cambiato il mondo, non possiamo pensare a metodologie trasmissive del sapere, io insegno, tu impari, no? È un percorso di apprendimento, quindi cambiare la scuola dal luogo dell'insegnamento al luogo dell'apprendimento. Sembra ovvio, però è molto duro cambiare, è difficile, però si può fare. Grazie, grazie a Salvatore Giuliano dell'ITIS Majorana di Brindisi, e salutiamo il nostro ospite invece della Fondazione Agnelli, ricercatore della Fondazione Agnelli, Gianfranco De Simone, buonasera. Buonasera. Perché noi stiamo raccontando un po' alle famiglie perché iscriversi al classico, perché iscriversi allo scientifico, tra un po' parleremo anche dei tecnici e dei professionali, però poi una volta scelto l'indirizzo c'è il problema di scegliere quale di queste scuole, soprattutto nelle grandi città, c'è una grande offerta, quale scuola scegliere, e non è cosa semplice. È vero che c'è Scuola in Chiaro, uno strumento abbastanza recente che è davvero molto utile, eh? Davvero raccomandiamo a tutte le famiglie di dare un'occhiata a Scuola in Chiaro, perché contiene moltissime informazioni, i risultati degli invalsi, oltre all'offerta formativa. Quanti ragazzi se ne vanno da quella scuola? Che anche questo può essere un po' un indice di qualcosa che non va. Quindi davvero vi consigliamo di leggerlo, non è facilissimo, ma di leggerlo con grande attenzione. Voi invece avete elaborato un altro strumento per mettere a confronto i vari istituti, ce lo racconta De Simone? Sì, noi abbiamo elaborato uno strumento che, se vogliamo, è un po' complementare a quello preziosissimo rappresentato dalla Scuola in Chiaro del MIUR. Il nostro strumento praticamente vuole essere uno strumento di supporto alle famiglie in questa scelta difficilissima, e in pratica siamo partiti dalle domande che poi le famiglie si pongono quando vogliono scegliere a quale scuola specifica iscrivere i propri ragazzi, e che sono praticamente cosa succederà dopo aver frequentato questa scuola, quindi dopo il diploma. Andranno bene all'università, troveranno un lavoro soddisfacente, eccetera. Quindi voi avete eccetera. Cercato di valutare, perché da qualche parte bisogna pur cominciare a valutare queste scuole, di valutare le scuole, i singoli istituti, vedendo come, esaminando come sono andati i ragazzi nel primo anno di università usciti dai esatto. singoli istituti. Con eduscopio.it facciamo esattamente questo esercizio, siamo andati in pratica a tracciare tutti i singoli diplomati delle scuole italiane, parliamo di 716.000 diplomati su 3 anni, che dai percorsi sociali e tecnici sono poi transitati all'università. Li abbiamo seguiti per il primo anno di università, quando l'influenza della scuola d'origine è davvero forte, e siamo andati a vedere quanti esami hanno superato e con quale media. Tutto questo l'abbiamo poi ricondotto alle scuole di origine, quindi permettiamo alle famiglie di comparare le scuole. Quindi le famiglie possono andare formative, certo. sull'indirizzo, possono andare sulla propria città ovviamente, e poi digitare la singola scuola e vedere il risultato. Io mi sono divertita, adesso ormai le abbiamo salutati, ma mi sono divertita a fare questo, chiamiamolo gioco, non si offenda De Simone, so che lei ci ha lavorato, ma io lo chiamo gioco. Ho esaminato l'ITIS Majorana e il Gulli e Pennisi di Acireale, dei due ospiti precedenti. Devo dire, entrambi sono risultati ottimi in questa, tra virgolette, classifica, anche se so che si offende se la chiamiamo classifica, perché classifica non è. Però insomma sono risultati. No, di fatto non è una classifica, perché ogni utente, a seconda dell'interrogazione che fa, ha una restituzione di risultati che può essere molto diversa, però assolutamente centrata sulle sue aspettative e sulle sue esigenze, quindi di fatto è semplicemente una comparazione tra scuole per una delle missioni formative che hanno svolto. E certo, lo stesso abbiamo cominciato a fare quest'anno per gli istituti tecnici e professionali, nell'ottica di considerare come preparano i propri studenti per il mercato del lavoro. L'abbiamo fatto in via sperimentale per Piemonte e Lombardia, speriamo dal prossimo anno di poterlo estendere anche ad altre regioni. Perché naturalmente dai tecnici e dai professionali meno di frequente si va all'università, quindi invece che guardare i risultati universitari siete andati a vedere se hanno trovato lavoro e in che tempo. Esattamente. Davvero uno strumento molto utile, grazie mille De Simone, grazie per avercelo raccontato, e noi consigliamo davvero alle famiglie di dare un'occhiata, perché bisogna tenere conto di tanti aspetti e questo può essere un aspetto interessante. Ci fermiamo per qualche istante, abbiamo il meteo, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri sms. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri. Perché spesso chi ti giudica è il primo che poi ti trucida. Quando lanciare un sasso vale più di una supplica. Ci hanno detto non è tutto oro ciò che è logica. Ma l'hanno detto perché tutto lo ciò che luccica. Ora voglio gridare fortissimo, la vita fa schifo, il panorama è bellissimo. Il 349-238-6666 per i vostri messaggi sms. Un'ascoltatrice ci scrive che più che orientamento in questo periodo nella sua scuola e forse nella sua famiglia, non so cosa si riferisca, si fa più disorientamento, insomma davvero c'è un po' di confusione nelle famiglie evidentemente in questo periodo. Sentiamo un ragazzino, perché sono loro poi, no, i protagonisti di questa trasmissione, e quindi è giusto che sentiamo anche loro. Marco, buonasera Marco. Buonasera e grazie per l'invito. Marco, quanti anni hai? Io ne ho 13. Quindi stai scegliendo sì, cosa fare dopo la scuola media. Certo. Hai già deciso cosa... Sì, ho optato per un indirizzo scientifico Cambridge. Ah però, ma da dove chiami Marco? Io chiamo da Roma. Da Roma. Perché cosa vorresti fare da grande? Ti sento con le idee molto chiare, quindi evidentemente avrai già quasi un percorso tracciato. Vorrei riuscire o a fare il militare o a entrare nel campo diplomatico. Nel campo diplomatico. Fa bene Marco a fare lo scientifico per il campo diplomatico, Sturaro? Sì, un liceo secondo me, adesso va bene il discorso che non si deve mandare tutti al liceo o i bravi al liceo e gli altri all'istituto tecnico professionale. Questa è una tripartizione che non deve più trovare spazio. È vero però che chi ha già intenzioni adesso sul militare può entrare in accademia, evidentemente, però chi ha già intenzione di proseguire gli studi all'università, anch'io consiglierei un liceo. Poi, assolutamente poi, un liceo, evidentemente Marco ama le materie scientifiche forse? Certo. Ecco. Oh. Mm. Daniele, fa bene Marco per la carriera diplomatica a fare lo scientifico? Ma è chiaro che se il suo sogno è quello ed è fortemente determinato a fare quello, sicuramente sì. Però ecco, qua faccio un ragionamento a monte, magari non è il caso di Marco. Per quanto riguarda le professioni, si pensa sempre a delle professioni che poi debbano necessariamente avere un percorso formativo all'università, ma molto spesso si dimenticano delle professioni che magari oggi sono molto ricercate e che magari ci si può accedere solo con un diploma. Ad esempio, tra i 10 mestieri più ricercati ci sono degli addetti alle macchine utensili, piuttosto che anche analisti software, che però possono venire fuori da un buon istituto tecnico. Quindi ecco, consiglio. Però Marco vuole fare la carriera diplomatica, chiaro, infatti... non lo convinciamo ad andare a un istituto tecnico. Assolutamente, vero. Ciao Marco, buona serata, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie per l'invito e arrivederci. Grazie a te Marco. Salutiamo la nostra nuova ospite, Chiara Manfredda, responsabile area sistema formativo e capitale umano di Assolombarda. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, il nostro giovane ascoltatore vuole fare la carriera diplomatica, però qui si diceva che non tutti evidentemente devono fare il liceo, non tutti devono fare, vogliono fare la carriera diplomatica. Certo. Voi imprese sono anni, no, che lavorate, sì, anche a contatto con le scuole, dentro le scuole, per, certo, non dico per convincere i ragazzi, perché non si deve convincere nessuno, ma quantomeno per illustrare, no, un'offerta formativa che può essere più ampia di quella di un liceo. Ci sono degli, certo, ottimi tecnici e peraltro voi aziende avete disperatamente bisogno di ragazzi che escano, certo, da questi tecnici, Manfredda? Assolutamente, ma infatti per noi in questo momento il forte impegno è soprattutto nel, diciamo così, nel rilanciare l'istruzione tecnica, un'istruzione tecnica che spesso è vista un po' come una scelta di serie B, per cui abbiamo assistito negli ultimi anni a un paradosso, per cui mentre le imprese da una parte chiedevano tecnici sempre più qualificate, le scuole hanno visto ridursi invece proprio gli iscritti agli istituti tecnici. Ho rivisto qualche dato, nel 90 gli iscritti agli istituti tecnici erano 1.300.000 e circa il 45% degli iscritti, oggi abbiamo 830.000 iscritti, quindi è un dato abbastanza preoccupante, anche se noi stiamo molto lavorando e speriamo ovviamente di ottenere dei risultati proprio in questa direzione. È importante che ci siano comunque dei robusti interventi di orientamento che superino lo stereotipo, che facciano davvero superare lo stereotipo che l'istruzione tecnica è un'istruzione di serie B. Non è vero, perché all'interno di questi percorsi i giovani possono trovare una piena realizzazione, ovviamente sulla base anche di valori, stili cognitivi, attitudini. Ci sono giovani che sono molto portati, che mostrano un interesse per come funzionano le cose, quelle che noi chiamiamo anche una sete di tecnologia. Abbiamo bisogno ovviamente di questi aspetti, una voglia anche di sperimentare, di applicare quell'intelligenza pratica. Mi piace anche ricordare che comunque bisogna ripartire dall'identità dell'istruzione tecnica, che davvero è stato ed è tuttora, soprattutto in alcune scuole, un vero e proprio gioiello per l'Italia. Eh sì. Bisognerebbe ritrovare quello spirito. Assolutamente. E soprattutto qualche passo avanti è stato fatto, Manfredda, perché sì, quest'anno ha debuttato l'alternanza scuola-lavoro anche nei licei, che insomma avvicina, no? Però avvicina, certo, le scuole al mondo del lavoro, fa entrare i ragazzi, certo, nelle aziende. Assolutamente, ma allora l'alternanza in realtà è diventato un obbligo con la legge. Dal nostro punto di vista da tempo lavoriamo ovviamente per costruire dei partenariati tra scuole e imprese per consentire ai giovani di entrare comunque nelle aziende. C'è bisogno di far conoscere come funzionano le aziende. L'alternanza è un'occasione anche da un punto di vista orientativo, perché consente di sperimentare concretamente quelle conoscenze, quindi di capire anche qual è la finalizzazione degli studi che io faccio. Questo è molto importante. Oltretutto, e questo è un dato, l'altro è che comunque attraverso l'alternanza io sviluppo delle competenze. Cioè quello che è importante fare, l'occasione dell'alternanza è interessante perché io posso far capire che le competenze si sviluppano non esclusivamente a scuola, ma che anche altri ambienti di apprendimento, quali per esempio appunto i luoghi di lavoro, possono essere un'occasione per sviluppare appunto. Manfredda, cosa diciamo a questi ragazzini di 13 anni che devono scegliere cosa fare dopo? In una frase. Allora io dico sicuramente pensino anche a quello che c'è dopo, pensino però a sviluppare davvero le loro attitudini, le loro conoscenze, e non dimentichino di conoscere delle esperienze quali quelle offerte dall'istruzione tecnica, che sono assolutamente delle esperienze di qualità. Grazie a Chiara Manfredda, responsabile area sistema formativo e capitale umano di Assolombarda. Sturaro, voi fate conoscere nella vostra scuola l'offerta degli istituti tecnici? Sì, sì, il più possibile, sia facendo venire nei nostri plessi, per entrare plessi di medie che magari hanno qualche differenza al loro interno. E quest'anno siamo partiti da un breve sondaggio con le famiglie degli alunni delle classi terze medie, chiamiamo per semplicità e per chiarezza, per vedere di quali due, tre indirizzi ciascuno volesse sentire una presentazione. Sulla base di questo abbiamo invitato in qualche sede classico e scientifico, in qualche sede scientifico e tecnico, abbiamo cercato di trovare, di convincere questo compito dei docenti di classe, ciascun ragazzo e famiglia a orientarsi per il meglio secondo le attitudini e ragionarci già per tempo in classe, perché non sono solo gli incontri o altro, ma anche di far conoscere. Il passaggio successivo è proprio portarli o farli andare nelle scuole. A vedere come funziona, a fare qualche piccolo stage. Ricominciamo gli stage anche alle medie. A vedere, a sentire, a annusare, a capire. Quello perché che i ragazzi prima, hanno le antenne. Famiglie se le devono fare. Daniele, mi chiedono al 349-238-6666. Liceo delle Scienze Umane. Mia figlia vuole iscriversi all'economico-sociale. Che sbocchi lavorativi potrà avere? Beh, innanzitutto, essendo un liceo, chiaramente ti può dare, comunque ti permette di avere accesso all'università, anche perché direttamente da quel tipo di liceo non è che si possa pretendere, ecco, di avere una professionalità. Però c'è da dire che oggi, ad esempio, la professionalità con queste competenze che vengono da questo liceo si può costruire. Pensiamo al mondo dei social media, quelle che sono le dinamiche, ecco, psicologiche o comunque di trasmissione di un'informazione sono molto importanti. Per cui, ecco, magari se si comincia ad esempio a costruirsi una professionalità fin dal liceo, magari smanettando sui social, un giorno magari si può pensare di lavorare, certo. Ecco, questo è il segreto del successo, seguire le passioni anche durante il liceo, perché poi saranno quelle che magari ti potranno far assolutamente lavorare. Assolutamente. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp. Come si chiama quell'associazione che ha monitorato i diplomati all'università? Eduscopiolavoro.it, e eduscopio.it è l'altro, quindi della Fondazione Agnelli. Questo per il nostro amico Claudio che ci scrive al 349-238-6666. Strada in diretta. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Turistico. Che cosa vuoi fare da grande? Non lo so, tipo l'hostess, qualcosa del genere. Io la psicologa. Io il chirurgo. E per fare la psicologa che liceo? Scienze umane. Quali sono le professioni più richieste? L'ingegnere, no, non lo so. L'operatori. E quindi non andate al liceo voi? Anche. E poi vai a fare il muratore. Quello no. Cioè, il muratore è il secondo lavoro, poi un altro lavoro più bello. L'ingegnere. Sì. Vi siete già iscritti alla scuola? Sì, voglio iscrivermi al liceo classico Beccaria. Perché l'indirizzo umanistico? Perché io vorrei fare la carriera diplomatica e quindi penso che sia quello che più si addica. Credo che andrò al Vittorio Veneto. Che indirizzo? Scientifico. E hai dei buoni voti nelle materie scientifiche? Sì, abbastanza, cioè mi piace scienze, matematica un po' meno, però per i genitori, cioè per loro conta che noi scegliamo l'indirizzo che ci piace di più, non per la materia che dove andiamo meglio. L'abbiamo annunciato anche ad inizio programma, nostra ospite il ministro Giannini, in realtà questa sera non poteva, il ministro, allora l'abbiamo raggiunta nel pomeriggio, anche a lei abbiamo chiesto cosa fare per vincere un po' il pregiudizio di cui abbiamo parlato a lungo durante quest'ora, il pregiudizio che la scuola per eccellenza è il liceo, gli altri sono una specie di ripiego. Sentiamola Giannini. È molto consolidato questo pregiudizio, comunque questa falsa convinzione che i licei sono la serie A e gli istituti professionali sono la serie B. Questo non solo non è oggettivamente vero, ma è anche frutto di una difficoltà che la scuola italiana ha patito e in parte continua a patire, lavoreremo anche su questo, e cioè orientare i nostri ragazzi precocemente perché trovino la loro strada. Questa è la cosa importante nella vita e molti dei nostri ragazzi hanno una vocazione più professionale, diciamo, no? Sono più diciamo bravi, sono più portati, sono più inclini a specializzazioni che sono quelle caratteristiche degli istituti tecnici e professionali. Sa, i tecnici nel Novecento sono stati il pilastro della rivoluzione industriale dell'Italia, della industrializzazione per così dire del paese. Ora noi dobbiamo restituire loro quella vocazione, quella importantissima funzione di costruire competenze che peraltro sono quelle spesso che il mondo del lavoro chiede con maggiore insistenza rispetto ad altre. 9 studenti su 10 si dicono convinti che la scelta della scuola superiore sia però importante per il lavoro che faranno dopo ed è già una buona, diciamo, un buon punto di partenza per i nostri ragazzi, parliamo di ragazzini di 13-14 anni, anche se proprio anche su questi ragazzi si è fatta sentire la crisi, perché 7 su 10 dicono di avere paura di non trovare lavoro alla fine degli studi. Chiedono che la scuola li prepari meglio al mondo del lavoro, proprio come stavamo dicendo, soprattutto attraverso l'alternanza scuola-lavoro. che da quest'anno in realtà anche per i licei, se non con qualche difficoltà, come ovvio che sia magari i primi anni. Allora, un meccanismo questo che va rodato, come possiamo aiutare le scuole in questo avvicinarsi al mondo del lavoro? L'alternanza scuola-lavoro è uno strumento davvero molto utile, e come convincere anche le aziende ad aprire le porte a questi ragazzi? Ci vorrà anche qui un po' di tempo, però noi da quest'anno dobbiamo dimostrare che la scuola è aperta e sa gestire questo processo, che, voglio ricordarlo, non è accessorio rispetto alle lezioni in classe di natura teorica, ai laboratori, è qualcosa che si integra nella formazione. Dall'altra parte c'è il mondo dell'impresa, che in Italia è fatto, la nostra ricchezza, di un oltre 90% di piccole e medie imprese, che devono poter capire, e ci stiamo lavorando insieme a Confindustria, a Union Camere, insomma a tutti i soggetti che sono coinvolti, che avere un ragazzo in alternanza è un'opportunità straordinaria, perché avere una mente fresca, avere l'opportunità di capire cosa sta succedendo, no, in quella generazione, in termini di idee, di inclinazione all'innovazione. Noi stiamo lavorando a questo. Quindi insomma possiamo dire alle famiglie: guardate anche se le scuole a cui vorreste iscrivere i vostri figli fanno davvero, effettivamente hanno fatto partire l'alternanza scuola-lavoro. Questo potrebbe essere uno dei tanti criteri che in questo periodo si potrebbe tenere presente per l'iscrizione, per esempio. Sì, certamente è un valore in più, tenendo conto che però tutte le scuole sono coinvolte nell'alternanza, quindi laddove ci fossero dei ritardi, ritardi a cui noi metteremo un'accelerazione dall'alto, diciamo, perché tutte le scuole sono coinvolte, i licei come gli istituti tecnici, proprio perché è un fatto culturale che vuol dire imparo e faccio. Buonasera, Francesco Antonio Malaspina, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Carlo Porta di Milano. Buonasera. Buonasera a lei, dottoressa. Allora, perché andare ad un professionale? Anzi, prima le faccio rispondere a questa mamma che ci chiede davvero un aiuto e glielo diamo volentieri. A mio figlio non piace nulla, studiare è una tortura, è partito con l'alberghiero, ora va su meccanica, è partito nel senso che aveva intenzione di, odia la matematica, stiamo facendo di tutto per non perdere l'anno già in terza media con ripetizioni, aiutateci, proprio un appello disperato, credo una mamma, non si capisce dalla foto su WhatsApp. Malaspina, cosa rispondiamo a questo genitore? Ma guardi, io le posso dire che quando si iscrive a una scuola, se adesso un professionale, che è un tecnico, che è un liceo, comunque bisogna studiare, perché è attraverso lo studio che il giovane riesce a scoprire quelli che sono i propri talenti e piano piano riesce a orientarsi verso il futuro lavoro che andrà a fare. Io sono preside di un istituto professionale alberghiero a Milano, e ciò che ci caratterizza è il giusto equilibrio fra il sapere e il saper fare. Per sapere bisogna anche studiare, quindi è una risposta probabilmente che non, come dire, che non raccoglie il desiderio della famiglia, ma quando si va a scuola bisogna studiare. Bisogna studiare dovunque si vada, assolutamente. E non ci metterà mai poi nella vita, perché bisogna sempre aggiornarsi, quindi essere al passo coi tempi. Certo, ma la spina, perché bisognerebbe iscriversi ad un alberghiero in un secondo? In un secondo, perché all'istituto alberghiero, che viene praticata moltissimo l'alternanza scuola-lavoro, noi facciamo già 500 ore in un anno per i ragazzi di quarta e quinta, e c'è una concreta possibilità di trovare lavoro. Non è poco. Grazie mille. Ringrazio anche i nostri ospiti qui in studio, Daniele Grassucci di scuola.net. Buonasera Daniele, grazie anche quest'anno per essere stato qui con noi, e alla new entry Giorgio Sturaro dell'Istituto Comprensivo Via Linneo a Milano. Grazie infinite. Grazie a voi, buonasera. Saluto tutti gli ascoltatori, vi lascio a Eurozone e poi GR24.